Respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini per questa puntata di Respiro. Siamo in tempi di mare e di mare oggi parliamo. Nel 2000 fu avviato il più ambizioso programma internazionale di censimento della vita marina mai realizzato. Furono coinvolti 10.000 scienziati provenienti da più di 80 paesi per studiare la diversità, la distribuzione e l'abbondanza di tutti gli organismi marini. Un progetto da $1 miliardo, finanziato dalla Alfred Sloan Foundation, i cui risultati saranno presentati a Londra nel prossimo ottobre, dopo 10 anni di lavoro quindi. Roberto Danovaro è direttore del Dipartimento di Scienze del Mare dell'Università Politecnica delle Marche, è presidente dell'Associazione Italiana d'Oceanografia e Limnologia ed è l'unico italiano nel coordinamento europeo di questo censimento marino, in inglese Census of Marine Life. In questa intervista di Natasha Gargano, Danovaro ripercorre questi anni di studi spiegando il senso, gli obiettivi e i risultati in parte di questa ricerca. Professor Danovaro, lei fa parte del team di scienziati provenienti da tutto il mondo che hanno preso parte al più ambizioso censimento della vita nei mari mai realizzato. Qual è la sfida che si pone questo programma internazionale e qual è anche la sua personale avventura in questo progetto? La sfida è molto ambiziosa. Sostanzialmente il progetto vuole censire, quindi documentare in modo inequivocabile tutte le specie che sono presenti nei nostri oceani. Parliamo quindi di un progetto che ambisce a scoprire milioni di specie, perché noi fino ad ora probabilmente abbiamo censito qualcosa come 350.000 specie su 1.700.000 specie note complessivamente sulla Terra, però gli oceani sicuramente nascondono il più grande numero di specie ancora non conosciute. Quante specie si stima rimangano da scoprire e qual è la percentuale delle acque che rimane ancora inesplorata ad oggi? Le specie da scoprire sono ancora tantissime. Una stima ragionevole dice che ci sono ancora 3 milioni e mezzo di specie, forse 8 milioni di specie da scoprire. Nell'ambito di questo progetto si è veramente una goccia nel mare, sono state scoperte, identificate solo 10.000 specie. Dico solo, in realtà è un numero elevatissimo, no? Però sono solo 10 anni di lavoro e quindi la maggior parte delle specie sono anche state raccolte, ma non sono ancora state identificate. Senz'altro tra gli ambienti più sconosciuti, perché anche più remoti e più difficili da esplorare, abbiamo gli ambienti profondi, gli abissi. Questi veramente sono ricchissimi di biodiversità, contrariamente a quanto si pensava in passato che fossero dei deserti, non è vero, sono ricchissimi di forme di vita e noi dobbiamo ancora scoprirne veramente la stragrande quantità. A questo proposito, qual è il ruolo giocato, immagino, dalle nuove tecnologie che permettano di scoprire specie che appunto finora sono rimaste inosservate perché o troppo in acque profonde o troppo piccole? È fondamentale. Diciamo che la sfida 2000-2010 del Census of Marine Life parte con una forte anche spinta tecnologica. Raccogliere dei campioni a 5 km di profondità è un'impresa veramente ardua. Pensiamo alla difficoltà adesso che vive la British Petroleum per solo tappare il buco fatto a 1.500 metri di profondità nel Golfo del Messico. Lavorare in queste condizioni è difficilissimo, sempre meno si va personalmente con delle persone giù con i battiscafo, sempre più si va con dei robot che sono filoguidati da bordo delle navi. E tutto questo è costosissimo, pensi che un solo giorno nave può costare, cioè il tempo per arrivare magari in un posto, può richiedere settimane, anche mesi, e un giorno nave può costare dai 20 ai 50 mila euro, quindi sono ricerche molto costose, con una tecnologia che non esito a confrontare con quella di tipo aerospaziale, ecco, per l'esplorazione di pianeti extraterrestri. Le fonti per portare avanti questo censimento sono solo quelle nel mare oppure si utilizzano anche fonti storiche, statistiche, anche aneddotiche per ricostruire la vita nei mari anche nel passato? Esattamente come dice lei, un insieme di strumenti di indagine, perché il progetto censimento della vita marina è diviso in tre assi. Il primo è studiare cosa c'era nei mari del passato, all'epoca dei Romani o nel Medioevo, e quindi questo necessariamente richiede una esplorazione di dati storici. Il secondo invece è quello dell'accensimento attuale, quante specie ci sono, quello a cui abbiamo fatto riferimento poc'anzi, e che vuol dire sostanzialmente le tecnologie e un investimento proprio sulla ricerca contemporanea. Il terzo è cosa vivrà in futuro degli oceani. Allora qui abbiamo sia i dati attuali, sia i dati passati e soprattutto un lavoro importante di analisi, di computer, di modellistica per capire dove stiamo andando a parare. Di questi dati raccolti verrà fuori un'enciclopedia virtuale, un archivio? Sì, Già adesso esiste un database che si chiama OBIS, che diventa un database mondiale con l'elenco di tutte le specie. Poi la seconda scelta che ha fatto il Census of Marine Life, che presenterà questi risultati nel prossimo ottobre a Londra, alla conferenza mondiale di chiusura, sarà quello di creare un hub, come dire, un portale con tutti i lavori di censimento pubblicati e disponibili gratuitamente online sulla Public Library of Science, la libreria mondiale della scienza. Senti, alla scienza a cosa servono queste informazioni in pratica? Servono tantissimo per capire intanto che tutto quello che noi abbiamo adesso in realtà è fondamentale per la sopravvivenza stessa della specie umana. Il mare, gli ecosistemi marini ci forniscono una quantità di servizi straordinari. Pensi che una molecola di ossigeno ogni due che respiriamo la producono i vegetali marini, una grande parte delle risorse di proteine del pianeta che servono per l'alimentazione deriva dalle risorse marine, ma anche gli idrocarburi, sempre più saranno utilizzati quelli prodotti e recuperati dal mare. Insomma, tutti questi servizi dipendono strettamente dalla biodiversità. Perdere biodiversità marina vuol dire perdere quelle che sono le ricchezze anche economiche, ma non solo economiche, su cui si è basata la crescita della nostra civiltà. Senta, il censimento prevede anche di fotografare la biodiversità degli oceani nei secoli passati. Ecco, com'è cambiata in sintesi la fauna marina, la popolazione dei mari nei secoli? Allora è cambiata in modo direi drammatico, perché sostanzialmente se noi guardiamo a come si sono evolute la disponibilità delle specie che erano presenti in mare a partire da quando si hanno i primi rilevamenti, pensiamo che lo stesso Aristotele, no, fu uno dei primi a fare un censimento della diversità e della fauna del Mediterraneo, e stiamo parlando del 300 a.C., 384 a.C. Da allora in poi non è cambiato quasi niente sino a circa 1700, forse anche sino alla metà dell'Ottocento, 1850. Poi con la rivoluzione industriale e lo sviluppo di tecniche, soprattutto di tecnologie sempre più efficienti per la cattura di organismi e l'interazione sempre più forte dell'uomo con l'ambiente, da lì c'è stata veramente una caduta molto forte, ma che si è ulteriormente accentuata negli ultimi 30 anni. Grosso modo oramai circa il 7% delle specie è estinto, oltre il 30% delle specie è collassato. Vuol dire sostanzialmente collassato, vuol dire che ne abbiamo perse oltre il 90%. Se prima nel Mediterraneo c'erano 100 squali, adesso ne sono rimasti 10. Questo ci dà un'idea di quanto sia stato saccheggiato il nostro mare. Pensiamo anche noi, quando eravamo giovani qualche anno fa, la dimensione media dei pesci che vedevamo in mare era immensamente più grande di quella di adesso. Insomma, stiamo miniaturizzando tutte le specie a fronte poi di un cambiamento radicale dei paesaggi sottomarini. Pensiamo ai deserti pieni di ricci delle coste del Salento, oppure alle acque sempre più ricche di meduse, sempre meno ricche di tartarughe marine o di grandi predatori. E quali sono le cause principali di questi cambiamenti radicali? Il primo fattore in assoluto che minaccia la biodiversità è la pesca eccessiva, e spesso non regolamentata, una pesca, parliamo sempre di pesca industriale. Il secondo fattore è la perdita di habitat. L'uomo sta modificando anche la fascia costiera, fondali, li sta rendendo più omogenei, e tutte queste perdite corrispondono anche a mancanza di ambienti idonei a mantenere un'elevata diversità. Al terzo posto, separato ma non di molto dalla perdita degli habitat, abbiamo proprio l'inquinamento, la contaminazione sempre più forte, magari di alcune sostanze che non più come negli anni 70-80 erano, che ne so, le macchie di idrocarburi, ma abbiamo sempre più una contaminazione da nuovi prodotti chimici che anche in basse concentrazioni possono avere effetti che sono negativi sulla capacità di riproduzione delle specie. Poi gli effetti della globalizzazione al quarto posto ci dicono che sempre di più c'è una evidenza di specie aliene, quindi specie non originarie di un posto che ci arrivano in qualche modo e ci rimangono. Poi abbiamo gli effetti invece dei cambiamenti globali, sia l'aumento della temperatura delle acque, pensiamo agli effetti che hanno sullo sbiancamento delle barriere coralline, sia l'estensione dei fenomeni di ipossia ed anossia, quando proprio grandi porzioni degli oceani rimangono completamente senza ossigeno, sia l'effetto, che è molto più recente e molto più subdolo, della progressiva acidificazione degli oceani. I nostri oceani stanno diventando più acidi perché c'è sempre più anidride carbonica nell'atmosfera e questa, sciogliendosi, si trasforma in un acido debole. Tra le aree più problematiche, che mostrano maggiori, diciamo, rischi di perdita di biodiversità a livello mondiale, abbiamo il nostro Mar Mediterraneo, il Golfo del Messico, e ben prima che succedesse il fattaccio, diciamo, nella rottura della trivellazione, il mare della Cina e il Mar Baltico, oltre ai Caraibi, tanto per citare i primi. Cosa possiamo fare sia a livello di legislazione a tutela della fauna ittica, sia a livello di consumatori? È evidente che tutti questi fattori agiscono sia su larga scala, ma soprattutto agiscono anche su scala locale, su scala regionale. Se la pesca è al primo posto, qui abbiamo evidentemente un'importante capacità di controllo, se lo vogliamo, dello sforzo di pesca e quindi del numero di battelli, della dimensione delle maglie. Sono stati mossi già dei passi importanti a livello della comunità europea, anche se apparentemente possono portare a delle maggiori limitazioni, saranno vantaggiose sicuramente per l'ambiente, ma anche per i pescatori, che invece andando così stanno riducendo talmente la taglia del pescato da non renderlo neanche più in grado di arrivare alla riproduzione. Poi abbiamo un assoluto bisogno di aumentare l'estensione delle aree marine protette. Da lì avremo la possibilità di ricreare la diversità e la ricchezza di fauna, che va poi a rendere, diciamo, più ricco anche più ricchi tutti gli ambienti circostanti. Per l'inquinamento, anche lì possiamo fare qualcosa per una produzione di una green chemistry che vada sempre di più a capire se le molecole che produciamo hanno o non hanno un impatto e scegliere quelle che ovviamente hanno minore impatto. Sulle specie aliene, diciamo che gli interventi diretti da fare sono pochi, ma possiamo avere la fiducia del fatto che col tempo tutti gli ecosistemi trovano il loro equilibrio e anche queste specie che adesso ci danno particolari problemi, nel tempo troveranno i loro nemici naturali. E infine, per i cambiamenti climatici, è chiaro che se non pensiamo globalmente a delle misure a livello internazionale potremo fare veramente ben poco per mitigare gli effetti, però possiamo adattarci, quindi i governi, da quelli regionali a quello nazionale, farebbero bene a mettere in cantiere delle proposte per sviluppare delle misure di adattamento. Infine, più nel piccolo, come consumatori possiamo stare più attenti ai piatti di pesce che mangiamo? Da tempo anche Slow Food tramite Slow Fish ci dicono che cosa è bene mangiare, no? Il pesce azzurro non è ad esempio solo un pesce che ha dei valori nutrizionali, una qualità nutrizionale straordinaria, molto più elevata di tanti altri grandi predatori. Ad esempio, si dovrebbe limitare al massimo il consumo di pesce spada e tonno, che sono molto più ricchi di metalli pesanti, in particolare mercurio, no? Quindi anche per tutelare la propria salute. Piccoli comportamenti, soprattutto basati sull'utilizzo di quelle specie che stanno ai livelli bassi della rete trofica, quindi di piccole dimensioni, ma che quindi hanno un minore impatto se noi le preleviamo rispetto ai grandi predatori, è già una prima misura. Poi io mangerei con molta fiducia anche il pesce allevato, soprattutto ormai ne abbiamo una grossa quantità di produzione anche nazionale e di elevatissima qualità. E poi possiamo fare molto anche in termini ancora più spiccioli. Pensiamo quando andiamo al mare a non raccogliere le stelle di mare, ormai stanno scomparendo completamente. La raccolta, anche l'acquisto di stelle di mare essiccate o di conchiglie come oggetti souvenir e ricordo sta provocando un danno gravissimo a queste risorse, perché per essere belle le conchiglie vengono uccisi gli animali quando questi sono ancora vivi, non vengono raccolti. E anche quelli che possiamo raccogliere se li lasciamo all'ambiente servono per altri animali e altri organismi che le colonizzano, le utilizzano. Non ultimo la piccola pesca o l'attività di pesca subacquea, che secondo me, come se è stato fatto ad esempio per la selvaggina, passando dalla caccia al bird watching, passando dalla pesca alla fotografia subacquea, alle prese subacquee, c'è un modo di avvicinarsi a questi organismi meravigliosi in modo assolutamente ecocompatibile e con azioni che permettono anche alle future generazioni di godere della bellezza di queste creature. Grazie a Natascia Gargano, che ha intervistato il professor Roberto Danovaro, direttore del Dipartimento di Scienze del Mare dell'Università Politecnica delle Marche, ricordiamo unico italiano nel coordinamento europeo di questo censimento marino. Il sito internet di questo censimento, se volete vederlo, è bellissimo, pieno di video, e lo trovate all'indirizzo www.coml.org. È tutto per questa puntata ed anche per questa stagione di Respiro. Ci ritroviamo a settembre. Buona giornata e buon proseguimento d'ascolto da Laura Bettini.